che difetto faceva della potenza? Allora, il mio a volte usciva e a volte no, era perfetto in tutto tranne che a volte se c'era una portante non usciva di né di fatto né di portante, non usciva di niente, rimaneva in quel range. Questo non dice un altro difetto, non è la mia, non è la mia. Allora, questo è un altro difetto, praticamente io sono a 20 watt, tu mi dici se i picchi sono positivi, sono 20 watt, se vado a tirare su la potenza, che la metto per dire a 40 watt, 50 watt di portante, automaticamente mi cala a 10 watt. Secondo te è un problema di potenziometro o è uno stacco del PLL? Questo non lo facevo il mio ce l'avevo un ascolto per dire, andavo a intervenire sul mic, non uscivo il radio, quindi non so che difetto possa essere quello. È un difetto diverso, qui, va bene, è una cosa che non riesco a capire. Ho una vaga impressione che sia che stacca il PLL o c'è qualcosa in perdita, perché era un po' ferma questa radio, capito? Un po' ferma, io altro non posso fare, controllo di lavato, pulito tutte le spinette, tutti i contatti, tutte le cose, però non è un lavoro che posso fare io su questa radio, assolutamente, io non ne ho mai toccato di questo e quindi non mi sento in grado di dire, so che cos'è, ci vuole la strumentazione per poterla mettere a posto. Volevo sapere solo questo, se il difetto era uguale, capito? Perché sgancia completamente, per dire, se sta dando 50 watt e 100 modulati, sgancia e scende a 10 watt di botto. Io queste cose non sono pratico né tecnico su queste cose qua, comunque fai 9-10 con picchi positivi o 9-15, non arrivi a 9-20, No, non ci posso mai arrivare perché sono con poca potenza, capito? Perché voglio capire se è quello il problema, se è un problema di potenza, se non sgancia è praticamente è come che vale in protezione, ti capito? Adesso io sto andando per dire con 15 watt, quasi 40 modulati, quindi la radio sta funzionando perfettamente bene, però se io vado a salire la potenza mi si stacca, scende nuovamente a 15 watt. Non lo so, provo a farlo a radio calda, perché magari subentra anche quello. No, sono rimasti in 10, era giusto per non incasinare qualsiasi, ho capito il canale. No, è tardissimo, non c'è un momento che funziona. Da ieri notte che ci sto lavorando, nel senso pulendo, facendo, staccando le spinette, riattaccandole, cioè cose normali, ho fatto una bella pulita, però fa questo difetto, capito? No, proprio l'ho chiamato, sai perché? Perché Antonio è dottorato in me, ma so che radio stia utilizzando magari, anche se è rimasto su 10, non so se è per guardi. Sono qua! Già, ti sentivo! No, non mi sentivi? Vabbè, sono contento. La mazzate di Valia! Non so che radio tu stia utilizzando, però mi immagino che qualche piccolo fastidio lo dia. No, gli ho messo due microconferenzanti e l'ho bloccata. La radio tua sto usando. E il 48. Ah, ecco. Cos'hai, fammi intanto. Io un giorno l'ho attaccato e tu ci lo provo per vedere se funziona ancora. Non c'era nessuno, però se non è che alle 10, allora, a un certo punto diventa muta, e tu cazzo il radio e comprende, la giovata onda, giro, nel canale 5 c'erano due camionisti che stavano scendendo la saccaccia, battimento zero. Ehi, trovo te l'ho detto, Cla, me l'ha fatto anche a me l'altro giorno, ho detto, ma li senti questi fischiando, invece erano splatter. Il cazzo, ma due camionisti scendendo la sciacchiaccia, me la mazzenda gita, io rimettilo dentro la scatola, vai dentro l'armadio, va bravo, vai. Vabbè, si sapeva, io da che mondo è mondo lo so, da quando è iniziata a modulare, la canale 48 pigliava a gol, più cosa c'entra? Comunque nessuno arriva come il tuo segnale, eh? E ci mancherebbe anche, se mi affaccio al terrazzo e ti sputo ti prendo l'antenna. Dove sei? Dopo il passaggio a livello di Dio. E io sono dopo il passaggio a livello a destra. Lui è un po' prima del passaggio a livello nel viotto, cosa c'è? Cosa saranno? Boh, 300 metri. Sì, sì, è poca roba. Forse in linea d'aria anche 100. Sì, linea d'aria sì. Se salgo sul tetto la vedo, è la tua antenna. E comunque io ho problemi a ascoltarti, io non c'ho l'ultimo segnale qua perché io sono in alto, quindi riesco a vedervi tutti e due, anche tu c'è un ottimo segnale, anche tu perfetto. Tino, vabbè, Antonio me l'ha già detto, la radio va bene, è simile a quella mia, è normale, ottima. Va bene, va bene. Ottima, io ho proprio un pelino, gli ho dato, perché era molto giù di LC, così invece ora siamo al limite della striscia rossa, però non esce fuori, mentre più alto si muoveva. Ok, va bene, e appunto io comunque ripeto, penso che come hai detto tu, due cose sono, può essere il potenziometro che è andato a fanculo carbonio, e allora lì ce la farò un po' particolare perché dove cazzo lo trovi quello, è a due, come hai detto tu, e lui pignolo come non vuole nessuna modifica. Oppure sgancia il PLL per qualche motivazione valida che io non conosco. E sai cos'è, Cla? Che ci sono tante cose dietro queste radio. All'inizio, che ne so, quando erano nuove, 5-6 anni di vita, che davano quei problemi, poteva essere quello, ma adesso che sono vecchie di 30 anni, devi aggiungere tu, non solo i condensatori che diventano vecchi, ma diventa vecchio tutto, transistor, diventa vecchio tutto assieme. Ci sono dei quarti che potrebbero anche andare a fanculo. Cioè, non puoi fare più una diagnosi così, dovete metterlo aperto, mille strumenti a controllare, ci devi perdere una giornata, magari vai a comprare un transistor che non è più lo stesso, lo monti, fai mille prove, dopo una settimana se ne va di nuovo a fanculo. No, ma io non prescindere dal transistor, quello che voglio, non sono in grado di poter metterci la mano. Non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Io ho l'unica radio che riesco a fare qualche cosettina, ma nel piccolo, sempre nel piccolo, è il 140, basta. Io né 430 né 440 non le ho mai toccate, non so assolutamente, sono un po' particolari, quindi l'unica cosa che ripeto che ho fatto perché per togliermi il dubbio che fosse qualche falso contatto, una a una, tolte le spinette, tutte ripulite con la trinina, rimesse, sembrava che stessi andando bene, ma poi come vai a superare quella potenza cala automaticamente, quindi non so se c'è qualcosa in perdita o se effettivamente è potenziato, questo non lo so perché non sono un tecnico da poter giudicare queste cose. Vai ti. Non so più dove indirizzarti, l'unico costume adesso che c'è, ma a me mi ha sempre detto, io ero molto preso dal flusso, e mi diceva, a volte cercavo di non ascoltarlo perché sai, non si queste radio, quindi ad oggi penso che di avermi fatto un po' la cultura, no? non dico un'esperienza tecnica, perché non lo posso mai fare, non essendo preparato in materia, ma una cultura me la sono fatta. Dunia di, è un problema che c'è radio, capito? Adesso questa amica l'ha comprata, non l'ha usata quasi niente, l'altra volta non l'ha usata, mi ha telefonato, ma provata a far così, tu che ce l'hai, vedi un po' se, tu lasciamela, non l'ha controllata, non mi costa niente d'altro, allora la posso qui, ma non pensare che possa fare miracoli, perché chiaramente io tecnicamente non sono preparato. L'unica cosa che ho fatto, ripeto, pulito tutto per bene, perché era ferma. Il problema sussiste e quindi con molto dispiacere posso dire che il problema c'è e non so da che parte girarmi a tu, perché non so cosa fare, non so dove mettere le mani, perché ribadisco, non essendo preparato in materia, non avendo la strumentazione, anche così a livello di controllo non so cosa fare. Anche a livello tecnico, anche se hai strumentazione, sei sempre comunque in questo qual modo impossibilitato a fare una riparazione recente, perché comunque vai incontro a delle problematiche che non riesci a risolvere, perché se io trovo un transistor che penso che sia in pista e su quella sigla non trovo niente, trovo un equivalente, non lo monto, magari va e non va, un giorno va, un giorno va, non sai mai se non va perché c'è una lista di equivalente non è originale, non va perché la pellicola è più piccola, cosa fai? Lo molla e dice c'è in giro. Questi apparecchi comunque già, questo che ha preso il tuo amico, sicuramente è un apparecchio che ci avevano già messo le mani. Portato da Pomponio. Ciao dottore, buonasera, buona fortuna. No, assolutamente no. Molto in ordine, perfetto. Vedendolo così, chiaramente io non posso dirti niente perché non ho assolutamente dimestichezza nel sapere, nel vedere, nel capire se è stato cambiato un integrato, se è stato sostituito quello o meno, se è stato fatto in laboratorio o magari è stato fatto in una maniera che però è tutto fascettato all'interno, è tutto con le fascette, tutto in ordine. Quindi non so cosa dirti. Però certo rimane il fatto, come dici tu, anche che sono delle radio adattate che quindi possono creare dei problemi da un momento all'altro, capito? Tutto qua. Io la mia ce l'ho tanti anni e per ben tre volte, una volta fatta a Sassari, altre due volte mandata fuori il continente a ripristinare e mettere a posto. Ho detto basta. Tanto vero che già mi sono organizzato, perché ho un 140 che mi sono fatto io, perché non avevo manco il decimale, ma lo sono proprio aperto io, potenza e decima, lo sono fatto per me, è roba mia, se ho sbagliato sono cazzi miei, non devo volare contro nessuno, la radio funziona benissimo e me la tengo già pronta, perché so che da un momento all'altro anche il mio mi lascerà a piedi, e cosa farò? Lo prendo, lo metto dentro l'armadio, lo smonto tutto, lo vendo a pezzi di ricambio, perché non lo riparerò mai più, e sarà l'ultima volta che io comprerò 440, perché ho avuto 100.140, non mi hanno mai lasciato a piedi, mai e poi mai, è un muletto, 440, tu lo spegni oggi che sta funzionando, cazzo, vai a accenderlo domani e non funziona più, ma pila di là in culo, avanti Tony. Buonasera a tutti. Tino, tu e tu non so chi c'è altro, boh, senti che ha saltato. Boh, riprenditi. Ciao Tony, ciao. Oh, sono arrivando perché c'è casino a casa, tra coccolite e compiti di matematica, insomma. Ho detto mille volte che quando sei a casa mandare tutti via come se parlano da racchino. Sì, perché non è una stanza adatta, purtroppo comunque se non avessi anche avuto sarei stato un po' funzionato, invece così è meglio vedere la conclusione. Bene, vieni qua che chiudo la fatta da attrezzi, te ne vai lì a modulare. Ora c'ho anche una baracca nella vera, se vuoi. Oh, tanto l'ho fumata la moglie, no? Cazzo, ho detto, perché non te la ripristini con la casetta che c'è la miera e te ne vai lì, ti fai lasciare la radio? Cazzo, ci magari te ne moscio, dici io. Maru, anche qua c'è la casella vera, ma se entri dentro è vero di cancareggi, di Dio di cui mi legge. Basta rivestire la posizione. Ah, io torno e finiamo, non ci vado a trincare, cazzo, ma bufonici, venerdì dopo facciamo un camioncino di blocchetti e ti lascio una casetta da 6 metri per 6, ma stai scherzando, ma ragazzi, la casa la mia, metà di bui. Oia, vabbè dai, comunque è così, la realtà è questa, è constatato, perlomeno io posso dire la mia su 440, Tino può dire la sua, tu puoi dire la tua, e chi l'ha avuto come noi, soprattutto come me, come Tino, che abbiamo avuto un bel po' di esperienza, e sono colpi, perché poi cazzo devi, o c'è l'amico che te lo fa, che io non ho, purtroppo. E questo mi dispiace tantissimo, comunque, a prescindere, oppure devi mandare a Bianconi come era prima, ma io il primo lo mandai da Guidetti, figurati, da Guidetti, poi Guidetti ha chiuso, quindi mi sono attaccato a Bianconi per ben due volte, e Carlo la terza volta mi ha detto, stai pur certo che la terza volta non ci sarà con quella radio lì, stai pur certo, perché è talmente isolata all'interno, anche se è funzionante al 100%, ma il materiale è talmente isolato che prima o poi ti lascia più, infatti sto aspettando qua, non me lascia più, la vota a pezzi e la vendo a pezzi del cambio, capito? Sì, lo so, è la stessa cosa che avevo detto tempo fa, sì, non si ricorda, nel 4.40, ho detto, va, se riesci a vendo, venditelo. Fatto bene, acquistato benissimo, non bene, contento di ciò che ho fatto e contento di ciò che ho acquistato. Io di quella lì ce l'avevo, l'apprezzo tantissimo come radio, perché è una radio eccezionale che ha il suo colore, il suo funzionamento, la sua bellezza, perché è molto bella. Purtroppo a me non piace il sistema che ha di funzionamento, quello che te l'ho spiegato, clave, quella roba lì, eccetera, eccetera, e poi lo smitter, no, io odio lo smitter, così. E quindi ho preso proprio da Bianconi, che c'ha il coso attaccato dietro, Bianconi, ho preso un bellissimo 140 dentro la scatola, mai usato, mai toccato, mai riparato, che ho ritirato un radioamatore. Non era manco il decimale, infatti il 27 non ero mai usato. E quando ero arrivato qua mi sono spaventato, e tu mi compri un barattino, minchia, cioè, allora ho iniziato ad aprire il coperchio, che ho visto già il trimerino, la slider a zero, l'ho messo a manetta, mi sono messo il decimale, no? Perché lì si può mettere il decimale con molta facilità, non come 440 che devi aprire il frontale e fare tagliare il dio. Qua è facilissimo, poi ho messo quello e poi sono andato col manualetto che mi sono conservato, che c'ho sempre, sono andato a toccarmi le cose che mi devo, che me lo devo fare, ma sono fatto per me. Mi ho messo il LED nello smitter perché c'è la lampadina che non si vedeva un cazzo, quindi sono fatto per me. E me lo tengo molto stretto, perché intanto prima o poi dovrò modulare con quella, perché il 440 andrà sicuramente in demolizione, perché già una volta mi ha dato il campanello d'allarme che l'ho acceso, l'ho spento la sera, tu immagini, già devo modulare della sera, l'ho acceso la mattina, puntini puntini, ma per qualche secondo tu si è ripreso subito, ho detto, ma lui campanello di allarme, boh, fattere. Vabbè, comunque se ti si spegne i coperchi dagli a me. I coperchi? Qual è il problema? Questa è nuova, ma anche questa che sto usando adesso è nuova veramente. Mi dispiace tantissimo. Quando iniziano ad avere dei problemi che possono essere veri per un tecnico, ripeto, io non lo so, ma per un tecnico può essere una stronzata, ma per me è un campanello d'allarme sicuramente. Ok. Pianino carissimo, come stai? Tutto bene? Sì, sono sistemato un po'. E ho ritornato per cambiare, mi sono fatto un po' di aletti di pollo rosso, come vecchio. C'era un amico, ecco, c'è un amico che le piace molto, il sale di pollo. Io una volta, da Tino, non so se erano lì di Gabbiano, ma erano talmente grandi che una non sono riuscito quasi a mangiarla, ti ricordi di te? Aspetta, non ho sentito che c'è una cosina, l'ho detto Gabbiano, ho capito. Ho detto Tonino che si è cucinato delle ali di pollo, io ho detto tanti anni fa, da Tino, proprio lì, ma non era così, era proprio a casa, vabbè, di campagna, non abitavi lì tu, e avevo fatto delle ali di pollo, ma più che ali di pollo, sembravano ali di gabbiano. Ah, tanti anni fa, sì, certo. Certo, ma Tonino, delle cose allucinanti, proprio barriere, ali di gabbiano. Io alla fine una proprio era, sembrava che avessi mangiato un pollo intero, invece avevo mangiato solo una, ma erano un bel grande, buonissime, fatte rosto. Sono molto molto buone, sono molto buone. In campagna noi le facciamo, però a casa poi fai al forno, io abito al secondo piano, qui noi non posso buonare fra fumo. Vai Antonio Regè, comunque sto andando sempre bene, non ha calato niente di fatti, di nulla, i picchi sono sempre positivi. Sì, sì, stai andando bene, sì, comunque anche a me mi piacciono molto le ali di polpo. Sì, sono le ali di anguilla. Le ali di polpo, il polpo c'è buona costa. E tu fallo poco. Sai che io proprio da Tino l'ho visto fare, ci do sempre lui perché Emilio Sfantini li ha fatti con lui. Io non sapevo che se potesse fare arrosto, che te lo metti intero, no, cioè crudo sopra la graticola calda, fa così, si ristringe, è una dose allucinante, bellissimo. E Tino è figlio, nipote d'arte, per forza sa cucinare. Non so più mangiare, che... Oh, già non lo mangio. Ma se mangi poco è meglio. Sa anche un po' legare col bastone, non so se tu ci sei buono. No. Io non lo so fare, Claudio. Certo, il giorno per poco, cazzo, ma essere il porcetto alle orecchie. No, io mangio poco. Ma che cosa, la so cucinare arrosto, però mangio poco. Non sono mangione. Guarda, il giorno hanno messo una scommessa con una cinghia e un bastone di scopa. Ci volevo essere legato, ci ho fatto Claudio. Tanto non le farei più in vita mia, cazzo. Cioè farti legare con un bastone e poi diventi tondo, perché praticamente oscilli per terra e col cacchio riesci a toglierti, una cosa allucinante. Ero molto più giovane ed ero molto più snello. Se non bozzava mi lisci la mazza. Beh, se non bozzava io non mi sciogli di più, ma ci appena ancora in chiede. Forse un po' tutti eravamo più giovani, più snelli. No, calmati, sì. Non eravamo più giovani, eravamo più snelli. Vabbè, giovane lo sono ancora di testa. Io dico sempre che dalla vita in giù sono un bambino. Sì, stiamo parlando di 20 anni fa sicuramente, ma no, ma neanche di più. Ascolta, dalla vita in giù sei ancora un bambino, ma allora porti ancora il pannolino. No, ma tra un po' sì, ma lo rimetteranno. Quanti anni sono passati, ti? Sì, almeno 30. Guarda, più di 35 anni. Minchia, cazzo, è vero, mi sono impiegato con il 61. Possiamo essere, minchia. 35 anni fa, che bei tempi, che bei tempi. Sì, perché ero alla fiera, sì, lavoravo in fiera, mi sembra. Lavoravo in fiera, eh sì, ha ragione. Come ti tieni? Hai avuto una sessione di quinto? Il telefono con Calesiria, ho trovato su internet, c'è la casina. Insomma, devo capire una cosa soltanto, che siete tutti messi bene, dai. E più, diciamo, come sono bene, peserà 90 kg. Togli una curiosità. Dimmi tutto. Ti ricordi quando eravamo qui a Santo? Allora eri sindaco Iperto. In che maniera avevo fatto la... avevi scritto a sindacato tu, in che maniera? Dunque, mi sono trovato nell'85, 87, 88 a 95. Mi sa che... aspetta. Io sono andato a lavorare con lui nel 90. Nel 90 sono andato a lavorare con la vista Donato. Quindi, forse 94, 95, non ho ragione. Sì, è una cosa del genere. Poi nel 94 era entrato Berlusconi al governo, non ti ricordi? Sono provato in mezzo, sì. Sono passato il tempo, Stiamo invecchiando, meglio invecchiare comunque. Stiamo invecchiando, non a tagli, non via via, sì. E quell'anno lì, Tony, e quell'anno lì che tu eri sindacalista. Perché io la Cagliari della Saras nel 91 e nel 96 sono entrato all'ESAF, quindi ero all'impianto di Perfugas, quindi, e tu eri sindacalista. Io ho fatto 6 anni di fila sindacalista, fino a che poi da sua dimissione sono uscito, giustamente perché la centrale stava finendo, il calderone di 450 unità, erano 3 scaglioni, quindi ho detto mi metto in mezzo, insomma a fine che poi rimango fuori. Quindi nel 95 è già dimissione, ci apri della luce. E sì, stavi utilizzando per via, perché nel 96 ero a Perfugas, ho avuto un incontro con CGRC e Will e tu non c'eri più. Sì. Va bene, Antonio riprenderai, K. Io nel 95 ero alla ICES, a Porto Torres. ICES Galazzi? Sì. Alla ICES chi c'era assieme a te? Punciotto? Gian Piero Salerno? No, c'era Giuni, Rio, Manca. Punciotto non c'era alla ICES, cazzo, ha fatto carriera lì, è il capocantiere diventato. Ma forse non era il capocantiere da noi? È un bravo tecnico elettrico, Gian Piero Salerno, noto Punciotto. No, io ero nel settore metalmeccanico però. No, lui era capocantiere elettricisti, molto bravo. L'ho trovato anche alla Saras, io l'avevo trovato alla Saras, perché un anno e 2 mesi, un anno e 6 mesi io ero dentro l'inchio stabilimento, quindi la conosco ICES, perché erano venuti a fare l'impianto lì al nostro trasportatore, con l'altro progetti, al nostro trasportatore che andava a Fiume Santo, che poi è stato colorato, mai usato, per miliardi spesi buttati a, per carità, a Vaiti. Sto facendo un documento veloce qua, che devo consegnare. Già sono in codice. Va bene, un attimo lì. Antonio? Sì, dimmi. Alla Saccia la conoscevi, Salasta? Guarda, io sono rimasto praticamente un annetto neanche, mi occupavo, facevo il saldatore praticamente, era tutto come saldatore. Alla Saccia lui di solito era lì a fare panini, capito, era quello messo male, poveraccio, tutto storpio. Uno così me lo ricordo. Vabbè, tu considerati che comunque io in quegli anni avevo 20 e passa anni, ero ragazzino, siccome avevo fatto le scuole professionali avevo la qualifica di coordinatore meccanico e mi avevano assunto come saldatore. Di chi stai parlando della Saccia e me, Tony? Che io ho collaborato con la Saccia e me quando ero a progetti. Savasta, Micoletto, Mezzogombo, Capelli Bianchi. Sì, siete via sempre in ufficio nella baracca con Corso lì, con, come si chiama, il capocantiere della Sacem, Corso di Comignone, che si chiama Bruno. Ma sarà con l'amico, Io me lo ricordo perché tutte le volte che andavo a prendere i patin list alla Sacem, dovevo portare dall'ingegnere per controllare e visionarli, poi facevamo tutti i soprannomi. Mi ricordo di questo stava lì in ufficio con come si chiama? Corso Girino, Giovannino, Borgavino, il capocantiere, faceva sempre Fendi Banini, lo mandavano a fare la spesa praticamente. Sì. Il mi ricordo che ammiravamo quel poveraccio di operaio che lavorava sotto, e un'altezza, non mi ricordo se erano 20 metri o cos'era, nella struttura, in acciaio, è caduto con tubi lucenti che sfortunatamente c'erano la rete elettrosaldata accatastata una sopra l'altro. Questo tubo è andato a finire in quel quadrato, dritto dritto si è parato, dritto dritto dritto, la biglia di capo l'ha fasciato mezzo capo, casco e tutto, è diventato bambino praticamente, come dire, il brutto poveraccio. Minchia, peccato, no, però lo conosci te, non era così, ma insomma, non era brutto, già però no, già insomma, si muoveva in modo un po' handicappato e forse allora aveva già preso il colpo. Come si chiamava il capocanti? Come si chiama? Ossia, se sarà in pensione. Come si chiamava il capocantiere della Sassi Mantù? Giovannino. Ehi, Giovanni Ocus. Ehi, ehi, ehi. Ma tu c'eri quando c'era anche Di Pasquale? Giovannino De Lugo o cosa? No, Giovanni Locuso, capocantiere della SACEM, sto dicendo Antu, ma tu c'eri quando c'era anche Di Pasquale in segreteria lì da impiegato? C'era uno, si chiamava Mario, si chiamava Di Pasquale. Il Mario, sì, Mario Di Pasquale era il portiere della torre, se, del sorso, quello è il cognato di Cusso, capito? È il cognato di Cusso quello, è per quello che era lì, fuori di un cazzo. A portare i limoni in pasta o i cantiere lì al carbonile, ogni tanto lo vedete in giro col casco in macchina e buffa di andare. Vabbè, io ero giovanissimo, non è che stavo lì attento ai cognomi, però sai, qualcuno me lo ricordo. Vabbè, io lo ricordo molto bene perché la SACEM faceva il montaggio di tutta la carpenteria lì al carbonile. Io ero con la Zampogetti, quindi stavo nell'ufficio della Zampogetti, dove venivano per portare i pacchindisti, quindi dovevamo controllare, vedere, capire, sapere, insomma, anche perché poi andavano fatti tutti i piani di lavoro, insomma, eccetera, eccetera, vabbè, era giusto per capire. Secondo me non è morto comunque il tronco lì, assolutamente, non è morto. Secondo me è ancora vivo, perché non era vecchio. No, io l'ho fatto proprio visto, capito? Io mi ricordo una sala di coordinamento, a casa eravamo 54 delegati sindacali. Vabbè, quei tempi, tempo pieno, eravamo 82 imprese a Fiume Santo, 2400 operai, nulla nulla. Fiume Santo io ho fatto solo dei sopralluoghi quando ero con l'officina torrentana, e boh, lì nella parte, cosa ti posso dire, dove c'è la, non ricordo che settori sono, perché sto parlando di secoli fa, dove praticamente hanno fatto la, dove hanno battuto la Torre Grande, lì in quel posto lì, insomma, non so che lotto sia, non lo so, comunque solo i sopralluoghi e basta. E boh, poi non ci ho mai lavorato dentro Fiume Santo, di Bentolini che si è fatto un anno e mezzo quando sono arrivato dalla Saras. Io stavamo costruendo appunto questa cosa qua e poi niente, poi ero rientrato all'estero. Va bene, vai Pi, c'è più silenzio, puoi parlare adesso? Sì, dai, diciamo che c'è gente qua a casa, quindi a volte c'è a brutto. Bambini portano sempre grande, come si dice, grande voglia di abbrotto. Grandi spese. È vero. Sì, ma lì non ci saranno solo quelli tuoi, che c'è anche l'ella c'è. Sì, sì. Adesso stiamo preparando che forse dobbiamo andare via. Comunque, sono ancora qua per il momento. Claudio, ma te lo ricordi Antonio Geronimo? Quello che lavorava alle officine torrentane? Sì, sugo. Geronimo abitava lì in via Taramelli. E proprio sotto la scomposta. Fortunato. Ma quello alto, quello alto brutto come la minchia. A me mi diria che la cosa frega. Cazzo, ma che fine aveva fatto? Immaginate che quel ragazzo lì, adesso, a parte quanto era brutto e come era impresentabile per conto mio, per come sono fatto io. Ma tu immagina che quello è laureato, ok? E l'ufficio autorettiano lo usava esclusivamente per la parte contabile. Aveva un'intelligenza fuori dal normale, perché nel periodo che io ho collaborato con la Turettana per quanto riguarda la Ginara, andavo il lunedì, cioè il martedì e il venerdì alla Ginara per il dissalatore e anche altre cose, insomma controllavo qualcosa di che aveva gestito la Ginara per conto del comune di Sentino, allora era ancora il comune di Sentino, poi passato al comune dopo, quindi immaginatevi quanti anni sono. Questo ragazzo, tutte le volte che io le mandavo le relazioni di quello che quantificava, ma in 5 minuti, se io per dire le dicevo, me le ricordo questa cosa, se io le dicevo, tanto guarda che il serbatoio di Fornelli ha consumato per dire tot metri cubi per il carcere, tot metri cubi sono andati al portabilizzatore, insomma facevo delle cose così, tutti 5 minuti mi va zia, butto un calcolo di quanto stava entrando a Fornelli, di quanto stava consumato il centro lì delle tartarughe, che non mi ricordo come si è, tutti 5 minuti era una cosa allucinante, cioè, anche a me hanno fottuto da me, ma perché queste tabelle dobbiamo averle, dobbiamo fare, è stato sempre così. Lo so, Cla, eravamo in contatto, gli avevo anche dato una mano a piazzare l'antenna io, via che era sua, con quell'altro ragazzo che poi ha avuto problemi e è morto, quel Maverick mi sembra. Sì, poi ha fatto la stronzata di farci impolvorare un po' politicamente, capito, un po' politicamente, è andato via dall'officina turettana, sottolineo che manco vero gli è sembrato al responsabile della turettana, ed è andato a finire a Roma. Roma praticamente si è un po' inserito in politica perché lui era amante di Silvio Berlusconi e non so che cazzo fine ha fatto, se l'hanno sotterrato oppure si è ancora lì facendo qualcosa, non lo so. A me mi ha detto che lui aveva studiato giurisprudenza, vero è? Ha studiato giurisprudenza, certo che sì, ti sto dicendo, l'officina turettana lo chiamavano per cognome e lo chiamavano dottore, ma stai scherzando, era una persona validissima, molto, molto intelligente, lo dico perché l'ho frequentato nel lavoro, aveva una capacità di fare le cose, è proprio veramente con molta intelligenza, capito? Era tenuto molto in considerazione, proprio per il fatto che si occupava di contabilità e di gestione aziendale e non è facile. Una volta mi aveva chiamato e mi ha detto mi devi dare un grande consiglio. Sì, dimmi cosa è successo. Non faccio nomi, ma una persona, CB, donna, che non abita a Sassari, ma dintorni, periferia. E niente, dice, si vuole mettere con me, quello con l'altro, la conosco il marito. Il marito è un montagnino, è sempre in mezzo alle pecore, occhio, ha chiesto di farsi la briglia, la gambina non è per te. Di innamorarsi molto molto facilmente, molto facilmente. Era successo anche in ufficio con la mia presenza praticamente, di passaggio ma ero presente, capito, c'era la segretaria che lavorava lì, che era part time, e ogni tanto, capito, faceva la corte, sta ragazza non diceva, mamma mia, signor Claudio, perché lì c'eravamo un po' e lì era un po' diciamo interno esterno, non è che ero proprio in prestito, quindi insomma diceva mamma mia, ma ti butto, guarda, sta sempre così, ti porto qui, ti porto là, sempre facendo. Un giorno però è capitato che al posto mio lui non lo conosceva, c'era il marito, sei rimasto del male allucinato, come potevi venire io? Scusate, se sono portato male, se io abito a Sassari, è stato mio manco, che proprio 21 anni, vediamo che, ma stai scherzando, tu non sapevo che era marito, se no te l'avrei detto, comunque stai attento, perché prima o poi il cazzo prende i colpi, c'hai il vizio di leccare troppo. Ma sì, era così, era, è fiammino Umberto. Comunque, a parte scherzo, non ho più visto. Io sapevo che abitavo le parti dove si hanno scomposto, quando via Taramelli, quella zona lì, lune sole. Via Taramelli all'inizio, proprio di fronte alle poste, proprio di fronte alle poste c'è quel cancello, se tu entri c'è il giardino, io abitavo a piano terra, e proprio all'ingresso del giardino c'era una casa in legno, una casetta in legno, non mi guardava da lì dentro, quindi me lo ricordo come oggi, vero Antonio? Sì, gli avevo piantato l'antenna io, il capo l'avevo fatto portare lì, era metà legno, metà metallo però, forse era struttura di metallo rivestita di perlinato, non me lo ricordo, comunque sono passati tanti anni, io forse avevo 20 anni. Dato, io mi ricordo che c'era come cibi, non mi ricordo. Lui si ci ha dato molto persone e mi diceva, guarda Tonito, lo giuro, su con dove vuoi. Io non temo nessuno, ma a te ti temo, chissà una cosa, buh. Sì, cazzo, Tonito, lui c'era anche a me, non è quello il problema. Con me andavo molto d'accordo, perché non ci siamo, sai, tu mi conosci tanti anni, quindi avevo, non ero come oggi, calmo e tranquillo, ma ero molto, molto più, come si dice, afferratore, nel senso, insomma, vabbè, comunque, mi ero presentato subito perché un giorno ero entrato in radio, io stavo parlando, ero qua già, i primi anni che ero qua, ed era la mania della bolsa, e lui era in un altro canale e lo sfatteravo, e quindi è entrato un clic a basso Poppea, oh, ma cazzo che ti riesce, qui no, mi stai sfatterando, cazzo vengo anche io, mi direi un po' l'antenna, ti ascolta, ma chi sei, dove sei, con chi sei, dimmi, raccontami, perché non capisco cosa vuoi. No, devi abbassare qui, come ti va a dire, la mania, poi c'era un po' la voce particolare, anche perché c'aveva il labbro superiore che le toccava, quando parlava del labbro inferiore, categoria di labbro e Maria, bumpati di coso, e quindi a volte capivo o non capivo, ti ascolta, ma dove abiti? Io sono in via Taramelli, qua dove ci sono le porte vicino, ah, non ho capito, sei di fronte alla scorraria, aspetta 10 minuti che sto arrivando, non se l'aspettava, capito? Aspetta 10 minuti, così me lo fighi bene in persona, questa cosa Poppea, questa mania che fai della botta, che ti spesto, ti alzo, no, è un cacato di valore della vita. E lì ci siamo incrociati, capito? Visto che io ero un ragazzo che non è che avevo paura delle persone, e quindi siamo diventati molto molto amici. E avevamo combinato tanto di questo Blasino in radio, che era una cosa allucinante, c'era molta complicità, soprattutto quando entrava Beckenbauer, che abitava qua vicino a me. Cazzo, lo facevamo a pezzi, ci divertivamo, mi sono divertito tantissimo a radio con Antonio, veramente. Roger, un attimo, oh Claudio, e mi stai ascoltando? Ehi, cazzo, non è Beckenbauer, cazzo, Renato, Cazzo, lo sai, no? Ma io, già lo sai, che quando si tratta di un amico, se poi mi devi venire contro, a me mi si gira il coglione. Attenzione, Radio Galera, prego. Cazzo, guarda, lo fai, facciamo questa mania, devi fare laterale, perché ti taglio la gola, cazzo, Antonio Giorno si copiava, come in sala RD, cazzo, RD, vai ti. Ma che nuova, Radio Galera? Sì, Radio Galera, allora, perché nuova Radio Galera, ma Antonio Giorno quasi a pezzi, devi fare a tutti i colori, e io che ero vicino, cazzo, devo rimanere, perché lo conoscevo, capito, mi passava anche, a volte mi attraversava la strada, e mi guardava un po' così, cazzo, non so mio buco, se no, delle prese per il culo che le facevamo con Antonio. A te tu, Zetto Franchi, avvirai, ammirirai. Ciao Giulio. Ciao Tonino, ciao Tino e ciao Claudio. E poi, dopo, negli ultimi anni, si metteva a semaforo qui a dei punti, si metteva a Beckenbauer. E quando si avvicinava alle macchine, ah, mi dai Zetto Franchi, dammi Zetto Franchi. ormai era fuori di testa. Quando si era trasferito, o meglio, quando la moglie l'aveva buttato fuori di casa lì che abitava vicino a te, Claudio, era venuto ad abitare qua in una campagna, non so, forse era una campagna della madre, non so, o di qualche parente, insomma. E poi si era messo a semaforo qui, tutti quelli che passavano, gli automobilisti, fermi a semaforo, avvirai 100 franchi, dammi 100 franchi, ah, io ho bisogno. Avanti, Cla. Ciao, Giù, buonasera, ben ascoltato. Sì, sì, me lo ricordo perfettamente, quegli anni lì forse a me mi era già sparito, però gli anni che l'ho abitato qua ci ha creato un sacco di problemi, un po' al quartiere, un po' anche perché c'era solo un palazzo delle case popolari, lo abitava lì, erano tutte cooperative, quindi gente che aveva comprato e ci stavano aumentando tantissimo, perché era un rione che inizialmente non era una cosa bella. Posso dire che è un fiore all'occhiello perché è un bellissimo rione, c'è tutto e la gente ci convive tantissimo e noi stessi ci conviviamo con loro, però in quegli anni lì era un casino, lui era uno di quelli che faceva molto molto casino, perché non era la prima volta che arrivava la polizia, i carabinieri, perché si ubriacava, picchiava la moglie, faceva un casino di Gesù Cristo. E quindi con Antonio Gerolimo, cazzo, noi facevamo spettacolo in radio, Antonio, Carmission, mamma mia, questo arrivando, capito, un casino, avanti, c'è anche Antonio Riserva, Giulio, avanti, Antonio. Ah, qua siete poco, ma era al 10, boh. No, noi siamo qua a testa a mille. Come te ne sei tu, merda? Siete poco, ma di proprio, da prima all'ultimo. Se mi hai lasciato Antonio da solo. Io allora praticamente non ho lasciato Antonio da solo, ero lì. C'è un rumoraccio allucinante. Sì, però tu mi sei spostato. Un telefono che praticamente c'è qua Remi a Rome, sentito a te e qualcuno in sottofondo. Cazzo, non ho avuto nessuno. Antonio ha detto guarda, prendimi una birra. Io ero lì fermo dal 10. No, vabbè, Luca non lo so. Sì, però non so, c'è un rumoraccio strano, a meno che non sono le lampade, quelle a LED che sono accese nel viale, non capisco più una mazza. Ciao Antonio, non ti avevo salutato poc'anzi, ciao Luca, non sapevo che c'eri anche tu, ma mi stai levando con un segnalone, come mai, non ti ho mai sentito così bene, o meglio così forte di segnale. Ho messo una boomerang anche quella alla 25, là. Sta arrivando bene, sì. Stavo parlando di Antonio. Antonio, ciao, come mai così forte? Non si è casa tua forse? Ciao Giù, ben ascoltato. No, sono in campagna, stavo facendo delle prove. Ma stai arrivando 9 più 18 qua, stai arrivando veramente forte. Per cui non ti ho mai sentito nemmeno una campagna così forte. Bene, ok, avanti Luca, visto che sei appena entrato. Giù, volevo sapere, comunque ciao anche a te e ciao a tutti di nuovo, volevo sapere se ho migliorato qualcosa, che ho cambiato l'antenna, vai. Ma diciamo che il segnale è discreto, oltre il 9, 9 qualcosina, ma di poco, a 9,5 non arriva, però la radio è sempre ultima, già lo sai, non c'è bisogno di dirtelo, va bene, o Luca, ma questa antenna dove l'hai messa? Nella seconda casa o nella prima? No, nella seconda casa, Giù, sulla 25 sono, stessa posizione dell'altra che me l'ha fatto Luca. Sì, la boomerang è grande ho messo, ma tanto ho deciso di metterla sul tetto, là. Così, anche se una mezz'onda, cos'è, un quarto d'onda, va bene, però va benissimo Luca, non c'è problema, Puglia, sì, non è precisamente per i buchi, figurati. Va benissimo, allora Tonia, io dimmi che sei arrabbiato stasera. Io arrabbiato, assolutamente. Non c'è, guarda, più persona serena e felice come me. A chi fa poco di punto ai brulari a farmi bagnare il bollo. Ah, c'è anche Torino. Torino, a te mi hai dato qualcosa. Tu stai arrivando sul 3 più 30. Vai, Torino, guarda un po'. E tu sei quasi sul 3 del 9.30. Ci ho inventato, Luca. Ci ho mai sentito. Radio bomba, come al solito. Ah, buonissimo. Cazzo, signora, anche tu. Vabbè, sei, diciamo, vicino a me, là. Anche Tino, tutti i forti siete, là. Siete tutti lì comunque, tu sul più, che sul 3, che è in mezzo tra il 3, tra il più e il 3, va bene, là, niente, sono entrato così, adesso rimango in ascolto, mi assento, ci sentiamo dopo. e magari adesso lo porto a questa pappardella, ti dici che siamo più 3, più 2, più 4 e tu ce lo smetti a LED. No, io ce lo smetto, a cosa? Ad ago, anzi, lo smetto. Ah, pensavo lo smette la sabbia. No, ad ago. Adamo ed Elfo. Mazzucchi, davvero. A me quando mi metti a me, all'angolo mi metti a me, Luca, con cui tu smetti, molti di tu. Tu sei sul più dello Smith, sul più mi arrivi. Ehi, quanto sono contento, caspita. E beh Claudio, quel problemino mi sembra che non l'hai risolto, perché ti sia abbassato il segnale, che si abbassava quando stavi facendo le prove. Se mi sto abbassando il segnale, io sto sempre usando questa, non si è più abbassato. Oh Giulio, ma tu l'hai l'antenna autocostruita o l'hai cambiata? L'avevo cambiata, adesso ho l'originale, la Game Master originale. Però oggi ne ho ultimato una, ma è da mettere su e provare a controllare, a vedere se è un pasticcio o se funzionava come quella di 2 anni fa, che poi ce l'avevo sino a un paio di mesi fa. Vediamo un po' se sono funzionato anche questa volta, ma non ho i collari per poterla attaccare al tubo, per cui non lo posso fare, fin quando non vado a comprare 2 collari, in modo che possa installarla e naturalmente poi per cercare di regolarla il più possibile. Va bene, dai. Andare. Avanti Tino, rientrato sì. Vabbè dai, io mi lascio, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ciao Luca, salutone allora, a riprusi, vedrai. Tu hai battuto l'entrata di Lurione e l'uscita di Lomazzone, perché sei entrato e uscita in un attimo. Va bene, dai. Dai a tu, dai, dimmi tutto. No, sento, ma perché mi sto abbassando il segnale? Perché non lo sto facendo più quel difetto. C'è un errore, no? Oh Claudio, ma a me sì, lo sei, ma con nove dirgli, cioè lo stesso caro che avevi stamattina o quando eravamo, quando è che abbiamo stamattina eravamo facendo quel controllo, ieri sera forse. E appunto, da 9 e 13 che avevi, 9 e 15 anche, e sei sceso a 9 e 8 diciamo, e così sia adesso in questo momento. Non c'entra niente quello, tu devi vedere se sto modulando o si abbassa il segnale. Sono con 10 watt Giulio, con l'altro mio 440, io ce l'ho portante a 40 watt, a 30 watt, e qua ne sto usando 10. Allora quello, c'è altro quello, il motivo, no? Perché quando stavamo parlando mi stavo dicendo che stavi usando 20 watt, però c'era questa oscillazione di segnale, la radio rende perfetta, no? Non ti sto dicendo niente, la radio è ultima, no? Non c'è problema. No, io mi riferivo al segnale che appunto ieri stavo facendo, quando era stamattina che non mi ricordo, perché sto invecchiando e sto perdendo la memoria. E dunque c'è questo quadro di segnale che è esattamente quello quando scendeva, quando stavo facendo quella regolazione. Mi sono spiegato adesso? Sì, ma è stabile perché sto usando 10 watt, cioè non sto usando la mia radio, la sto tenendo sotto controllo, non ho abbassato pensa perché potrebbe abbassarsi il segnale e te ne accorgi, perché da 9 e 10 che mi dai, 9 e 8 può scendere anche a 9, e quello è il difetto che fa, però siccome non lo sta facendo più adesso, e quindi lascia perdere il mio segnale con questo sto usando pochissime watt. Voglio tirare di più, capito? Sì, ho capito qua, no, io mi riferivo a quello, ho voluto dire, perché visto e considerato che sia quel segnale che appunto scendevi quando stavi facendo quella vera, vai! Che non te ne eri accorto appunto di quel calo di segnale, ma non del radio, non ne voglio mai, già te lo dico io quando la radio non mi piace, che non va bene, perché del radio vai benissimo, non bene, benissimo. Bene, bene, facciamo girare. Antonio. Eccolo qua. Ma non mi basta, però, dimmi di più. Sono qui, così. E allora? E allora, anch'io sono qui. Anch'io sono qui, ero davanti alla televisione, mi ho guardato il finale del Giro d'Italia, eccetera, eccetera, e poi qualche video, e così via, tutto lì. Anch'io adesso sono qua, sono salito su a chiudere le persiane della mansarda, se no stavolta me ne dimenticavo, magari rimanevo aperto, no per niente, non succede niente, ma in caso di vento sbatterebbero, tutto lì. Allora ho provveduto prima che faccia buio, va bene, sono qui. Avanti Tony. Ecco, io sto scrivendo un messaggio, un po' importante lei. Continuate, io ascolto, vedi che ma lasciale sbattere le persiane che intanto poi te le fai nuove. Beh, buonasera a tutti, mi. Ciao a tu. No, ma il problema è quello, tu, non hai più gana, l'hai compreso. Il coronavirus mi ha fatto diventare mandrone. E poi avrei voglia di fare qualcosina, anche perché devo fare qualche cosina. Però il coronavirus mi sta bloccando. Non voglio rischiare niente, tutto lì. Avanti Antonio con il bombolo. Sì, buonasera, mi stavo ascoltando, sono entrato a salutarvi, capa. Dai, che io sto preparando la bagna, io su. Ok, dai, ce la risentiamo più tardi. Va bene, a tu, a fare scheggia, la vuoi venire tutti quanti a mangiare a casa tua, non ti preoccupare. Non so se sei attaccato, ma adesso mi stai trovando 9 più 2, 9 più 2, così, per la cronaca, tanto per essere chiari. Avanti Claudio. Sì, c'è un buon segnale, Antonio, sta arrivando benissimo, quasi 9:20 qua, ottimo per la truppa. Ok, ho dato 10 volte in più, 10 volte in più, così vediamo se mantiene... Tiene bene il fatto, dai, che non cambia il segnale. State attenti, se avete che cala il segnale, avvisatevi. Ok, avanti, Dino, ci sei? Dino è andato a comprarsi un telefono nuovo, per cui non risponde per quel motivo lì. Avanti, riserva, a riserva, voluci, sì. C'è anche Tonino Kawasaki. Anche Tonino Giulio. No, ma Tonino mi sembra che ha chiuso, Toni! Unix, ho detto, mi ascoltavo, sto seguendo. Ma te, Toni, nonostante la mia vecchia età, Claudio, io sono attento, Tonino stava chiudendo, catitina. Lui, dice, è attestando un fuoco con la graviglia. Hai capito, Tonino a quest'ora incomincia a fare fumo, ma di quel fumo è importante però, vero Toni? Assoluto un fiato, si gli atteggio. Va bene, dai. Riprendi qua. No, mi è sfuggito, non stavo seguendo Antonino che era in QX. Va bene, ciao a tutti. Buon QX allora, dai. Va bene così. Ok. No, lo sto ponendo sotto controllo, Giulio. Ho iniziato con 10 watt, poi ne ho dato adesso del batto 20 watt di portante e 40 modulati, quello che deve essere chiaro. C'è un problema che dico io, ma intanto è così come dico io, non è questione di potenziometro, è questione che la radio quando inizia a caricare e andare, adesso stava per la lascia tutta la... Lo sappiamo, il 48 è un'ottima radio, ma in quanto a splattere è una radio della mutua, senza offesa per nessuno, ma lo sappiamo come funziona, da sempre è stato sempre così. vabbè, dai, avanti qua. Sì, infatti me lo si accorgo che è fatta mia figlia, però chiedo le due cosette, mi manca la Giovanni, riprendi o...